E una buona giornata, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat. Siete all'ascolto di una nuova spumeggiante puntata di Radio Contado. Esattamente la puntata 105. Guarda dama, non so come abbiamo fatto ad arrivare alla puntata 105 continuando a dire delle cose tutto sommato abbastanza intelligenti. Mi stupisco di noi. Abbiamo avuto anche delle puntate molto ignoranti, ma secondo me diamo anche dei validi contributi, almeno si spera. Poi lasciamo giudicare o darci consigli ai nostri amati radioascoltatori, alle nostre amate radioascoltatrici, a cui chiediamo sempre dei grandi feedback scrivendoci a radiocontado@insiveria.net. Vi ricordo inoltre che se avete voglia di andare a risentire puntate particolarmente interessanti, qualcosa che vi è piaciuto, trovate tutte le 105 puntate di Radio Contado in podcast su radiowombat.net. E abbiamo detto tutto, e allora è giunto il momento, perché qualche contributo ogni tanto arriva e devo dire che probabilmente ho anche dei fan, degli estimatori, perché mi hanno mandato una cosa da mandare, no, velocissima, ve la faccio ascoltare e poi la commentiamo insieme volendo. Eh sì, ragazzi, perché si dice che anche Tiziano Ferro ascolti Radio Contado e che sia soprattutto un fan della dama. Così dicono, io fatico ancora a crederci, la mia emozione è tantissima. E ringrazio la Grebana che mi pensa sempre. Grazie. E oggi di che vogliamo parlare? Tanta acqua bolle in pentola, tantissima. Allora, sì, guarda, gli argomenti di questa puntata sono talmente tanti che io non me li ricordo tutti, quindi chiederò il tuo contributo. Sicuramente abbiamo una lettura da Nunatak, rivista di storie, culture, lotte e delle montagne. Poi aggiornamenti sul percorso della CCCT, ma dimmi qualcosa di più, dama, dimmi qualcosa di più. Ma aggiornamenti sul percorso della CCCT, abbiamo un bellissimo contributo montato dal nostro mitico Don Camicia, grazie Camicia, che anche se non ti presenti in radio da un po' per tuoi validissimi motivi ci sei sempre nelle retrovie di Radio Contado, in cui insomma ci sarà uno spezzone di quello che è successo venerdì scorso in Piazza Tasso, che ricordiamo essere stato il secondo evento incontro del coordinamento delle comunità contadine toscane per insomma rivendicare un po' i diritti delle comunità contadine. Ne avremo poi un altro, ma lo pubblicizzeremo poco, domenica questa, e un altro ancora sabato 29, ma ne parleremo più tardi. E poi avremo, visto che in questi giorni alla Camera pare essere iniziato un dibattito reale sulla legge per l'agricoltura contadina, abbiamo contattato Roberto Schellino, che ci racconterà un po' questo percorso nazionale che la legge dell'agricoltura contadina sta facendo, perché ricordiamo che in Toscana è stato approvato un regolamento e una legge, ma in tutta Italia deve fare ancora un percorso veramente veramente molto lungo. Non è quello che noi vogliamo assolutamente, però è un inizio. E poi avremo Dino, che ci racconterà come al solito con questo sole splendente di primavera che finalmente oggi si è affacciato a noi, che cosa succede nel campo, ci darà consigli utilissimi. E poi torna dopo qualche settimana di assenza la rubrica delle donne ribelli, delle cuoche ribelli, con la nostra Clio. Quindi per il momento è quanto, mi sembra già tanta carne. Sì, mi sembra già abbastanza. Io adesso il primo collegamento sarà con Dino, prima metterei un bel pezzo musicale. Sì, e vogliamo anche un po' ricordare appunto Battiato con questa canzone. Sì, lo so, l'hanno fatto in tanti, ma lo facciamo anche noi, va bene? Ci sta. Quindi adesso ve lo ascoltate. اشتاتو اشوفتو والكل كل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن احنا اليوم نشتنف مش نشرب مش نشكل We'll be right back. se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Oh, Patriot Stars, oh, gauche vous, la musica contemporanea mi butta giù. Subito facciamo partire la nostra prima telefonata, il nostro primo collegamento ormai bisettimanale. Pronto? Pronto? Oh, Dino, buongiorno. Buongiorno o buonasera. Ma è forse, come direste voi, forse più buonasera. Io sono vecchio stampo nordico e per me finché c'è il sole è giorno. Ah, ho capito. Allora, buongiorno. Buongiorno, Dino. Buongiorno, buongiorno, come va? Ma dai, io sono abbastanza tranquillo, te come stai invece? No, io bene, in questo momento sono quasi in mood, come direbbero i moderni, per Nichella, però... Ah, sì. Perché è arrivato il sole e quindi questo è l'orario caldo da per Nichella. Quasi, no, via, ancora si può lavorare, cioè poi ora è tempo variabile, insomma. Ma te sei già entrato nella modalità estiva del contadino, che dopo pranzo qua, si sì, deve essere l'estate. Già insito dentro di me, insomma, quando arriva questa stagione già dopo pranzo scatta la pennica. Poi il contadino deve essere sempre un po' in anticipo sulle stagioni, Ma quindi sei in questo mood, no, stamattina che ora ti sei svegliato? Comunque, stamattina, ma non prestive, sei... 6 qualcosina, via, più o meno quell'ora lì. Sai, ora comunque la luce c'è presto, però anche stamattina era molto buio, era nuvoloso, quindi per fortuna poi si è aperto, quindi si è potuto lavorare un pochino nel campo, insomma. Ora questo tempo qui un po' sta rallentando un po' di lavoro, però insomma. Ma rallenta per la pioggia? Per la pioggia, sì. No, però da una parte che fa bene alle piante, perché ora parlo per me, magari ho fatto un po' in ritardo, però insomma ho trapiantato tutte le varie piantine così, quindi ora ogni fa altro che bene, che attaccano meglio insomma le piante, quindi da una parte fa bene, dall'altra parte ora cresce l'erba una bellezza, però va bene insomma. Quindi decespugliatore a manetta. Decespugliatore a diritto proprio, insomma. Quindi si avvicina a grandi passi la stagione degli sfalci, insomma. Sì. No, ora insomma è già cominciato alla grande, insomma. Allora, fosse, vigne, anche quello per dire, ora vedo, vabbè, comunque. Ora insomma vagando un po' per le colline, insomma ora si vedono tutte queste belle strisciate arancioni del disebbo in mezzo alle vigne, che se non fosse per tutto quello che c'è dietro sarebbero quasi un po' psichedeliche, non so, insomma. Però io ancora niente, ho di decespugliatore sotto. Sotto Davide. Meno però, male, noi ti rispettiamo anche per questo. Sì. No, già è un passo, no, perché prima proprio c'era il momento di zappare la vigna, che era cioè proprio i vecchi contadini proprio zappavano la vigna. Sì, beh, e non solo la vigna, zappavano tutto, cioè tutto quello, esatto, che era, tutto, ogni albero, ogni cosa. Tutto, quindi già io mi sento già un po' in colpa da questo punto di vista, non zappo la vigna, però insomma, già che la decespuglio, dai. Va bene, dai, ti perdoneremo questo tuo compromesso con la civiltà della tecnologia. Esatto, via, questo. Tradisco la zappa per una volta, insomma, quindi questo è. Via, e che suggerimenti hai per i nostri radioascoltatori per questo periodo? Questo periodo collegandoci a quello appena detto, direi ora bisogna controllare le infestanti nelle culture, cioè nel senso vuol dire che ora se si molle il colpo tra un mese tu c'hai l'orto pieno d'erba e è un casino, per due motivi: uno perché diventa più difficile poi levarle, le erbacce vanno assieme, ributtano tutta la roba lì, e poi insomma comunque l'erba non favorisce una crescita delle piante, perché ovviamente anche loro mangiano dal terreno, quindi gli rubano i nutrimenti, rubano nutrimenti per le piantine. Quindi ora grande momento di zappa in mano, e per chi non l'ha fatta ancora, cioè zappare patate, cipolle, e vedere appunto le piantine appena trapiantate non siano già infestate dall'erba, insomma ora è un momento che, e poi appunto ora quando esce il sole, terra un po' umida, insomma si lavora anche bene, quindi ti viene una bella terrina fine, quindi evita dopo anche di diventare troppo dura, se quando riuscirà il caldo, se viene troppo caldo poi sennò si fa un bel crostone sopra e si lavora poi male, insomma. Quindi ora è il momento di lavorare la terra proprio nel senso stretto del termine, insomma. Quindi priorità a lavorare la terra per, sì, poi, sì, sì, per poi mettere a dimora, cioè cosa mettiamo a dimora in questo periodo, sì, qua? No, o per quelle cose anche già messe, e, o per soprattutto quello, se no appunto ancora comunque siamo in tempo per mettere diverse cosine, insomma, per dire pomodori, quello che consiglio sempre io di metterli sempre a scalare, cioè non metterne tutte d'un botto ad aprile magari, ma invece secondo me per chi deve fare poi dipende che fini, però per il consumo proprio anche di metterle sempre un po' a scalare, che come termine, almeno qui c'è sempre San Giovanni. Più là di San Giovanni, poi le è un po' rischioso, non ti venga nulla. Fino a San Giovanni si possa mettere sempre i pomodori. Fino al 24 giugno. Non è male perché poi ce l'hai, sì. Il che non è male perché poi insomma tu hai anche delle belle raccolte a settembre, visto che ora è settembre, è un mese sempre piuttosto caldo, quindi insomma si può sfruttare fino a quel tempo lì. Guarda, malattie permettendo, a me è capitato negli anni scorsi anche di riuscire a raccogliere pomodori a ottobre addirittura, raccogliere le olive gli ultimi, certo, era un bel godere. No. Poi appunto c'è anche, ne approfitto qui per proporre di una vecchia ricetta contadina che è ottima, che sono i pomodori verdi, quella di settembre, pomodori verdi con l'uva, che sono proprio buonissimi. Quindi no, e poi volevo aggiungere a proposito di piantine che ora anche il momento delle cucurbitacee da mettere, e lì specialmente per le zucche da inverno e le zucche le normali estive di controllare bene ora, perché è il momento che vengano fuori un po' la temibile virosi. E che è sempre una roba che negli ultimi anni sembra sta avvenendo sempre più. Ma perché è dovuta al caldo umido? Ma in realtà no, pare sia portata questa malattia da alcuni insetti che poi portano, si immagina, questi batteri, non lo so, scientificamente bisognerebbe sentire una cosa, un uomo bravo. Nel dubbio però, diamo la colpa agli insetti, ma ho la sensazione che sia colpa nostra. Sì, ci sta, può darsi. No, comunque l'unica cosa che effettivamente diciamo sul campo proprio ho visto è che effettivamente quando qualche piantina comincia a malarsi di non tentare il recupero, e tanto una volta se la beccano non ci si fa nulla, di estirpare la pianta, quella almeno così non contagia le altre. Quindi non c'è un vero e proprio rimedio, si sostituisce la pianta. Il rimedio no, cioè si può fare a prevenzione, ma il rimedio no. Okay. Sintomi si vede la pianta praticamente, che le foglie praticamente cominciano ad avvizzire un po', a macchiarsi, a diventare grinzose, e si vede subito insomma, un po' ingiallire, quindi quando cominciano a non essere più la foglia bella liscia e tutto, bisogna levarla, perché appunto, come dico, io magari forse ci saranno anche dei rimedi, però io non ho mai, vedo anche chi dà le bombe a mano che non riesce a risolvere il problema, quindi. Ma quindi il buon consiglio è anche zucche e zucchine non piantarle tutte subito nell'immediato, ma di preservarsi sempre una scorta per sostituirle. No, le zucche no, quelle vanno piantate, perché quella è una raccolta unica che uno fa fine settembre, quindi vanno messe ora. Allora la pianta deve un po', gli ci vuole per crescere e per fare il frutto e far sì che si maturi. Quelle da inverno vanno messe più o meno, ora siamo un po' al limite, ma vanno messe ora, perché ora deve buttare la vegetazione, deve fare, insomma, si deve allargare la pianta. Per le zucchine, che appunto hanno un ciclo molto più breve, perché appunto nel giro di poco, quando fa caldo in un mesetto entrano in produzione abbondante, vanno quelle si possono mettere a scalare, quelle sì. Anzi, lo consiglio, perché poi appunto il contadino poi è sommerso dalle zucche, specialmente a giugno-luglio, e fa la dieta alla zucca, non sa in che modo farne. È la sagra dello zucchino. E in quel momento noi saremo pronti a consigliarvi mille ricette per usare le vostre zucche. Esatto, perché poi dà anche il brutto, tra virgolette, è anche una pianta, uno, che vanno cotte su sempre, perché non si possono lasciare crescere, perché poi insomma non la pianta poi ne fa meno, non sono più buone, quindi quelle vanno colte continuamente, ce n'hai tante e è difficile la conservazione, insomma. Ora qualcuno mi suggeriva anche di essiccarle, comunque insomma è un lavoro in più, ecco, quindi io c'è anche quella della zucchina essiccate, poi riesci a rivitalizzarle sbollentandole un po', però effettivamente è un lavorone che poi il contadino si deve accollare, quindi è sempre, beh, ecco, vedi, un altro consiglio importante è questo: se arrivi in questa fase qui che c'hai le piantine, butta il seme, se ne tira una manciata e finisce lì, poi vengono le piantine, ti dispiace un po' buttarle tutto, quindi alla fine tu fai delle piantagioni enormi che non sai poi che fatte nella roba, e poi alla fine tu vai anche a volte a sprecarle, a buttarle via, insomma, quindi bisogna imparare a mettere le giuste piante, perché poi hanno spreco di tempo, di acqua, di tanta roba, quindi non esageriamo, quindi perché nuovi lì contadini per lì, andare, come si dice da me parti, passin passetto, piano piano. Esatto. Non facciamoci prendere bene. Perché lì poi ti prende la fuga, dice che se ne frega, ormai c'ho 10 piante, sa, mettere a seminarle c'è un attimo. Poi dopo, o anche per prendersene cura e tutto. E poi al momento della raccolta ce n'hai tante, insomma, diventa poi sempre un problema e dispiace, poi, insomma, se la roba si deve sciupare, quindi bisogna imparare a metterne anche la giusta quantità. Quindi il consiglio del giorno è giuste quantità, non esageriamo, sì, però, perché tanto bisogna, poi è tutto lavoro in più. Bisogna ottimizzare essere, la parola essere bravi, del giorno. Essere bravi a capire il nostro fabbisogno e metterne di conseguenza. Poi dispiace buttare via le piantine, perché però uno trova a regalarle, fa così. Va bene Dino, noi ti ringraziamo per questi consigli preziosi anche per questa puntata e ci sentiamo prossimamente. Vai, grazie a voi e niente, buona continuazione. Ciao Dino. E io resisto, resisti. Provo a non dormire. Niente pennichella, resisti niente con noi. Pennichella. Se ci vuoi ascoltare, fra poco ci collegheremo con Roberto Schellino per la legge sull'agricoltura contadina, ti potrebbe anche interessare. Certo, allora sicuramente. E intanto vi ascoltate, allora, questo pezzo a tema, Paolo Conte, questa sporca vita. Ciao Dino. Ciao. Avessi questa vita morirei, ogni mattina questo sole non avrei, così ragazzo, così chitarra che non sai, a volertelo spiegare non saprei, se non avessi questa vita morirei. Tutto il mio cielo in questo sonno spenderei, e più ci penso più mi accorgo che è così, ogni volta mi ritrovo sempre qui a far trottare sotto il sole e la notte questa sporca vita che non ha mai pietà e non è mai finita, se no che si fa? E più ci penso più mi accorgo che è così. Non avessi questo sogno morirei in un terrore di vacanze, creperei sopra l'asfalto in piedi, non mi reggerei a volertelo spiegare, non saprei. E non avessi questa vita me ne andrei, sulle scialuppe del tuo cuore mi salverei, ma più ci penso più mi accorgo che è così, ogni ogni volta mi ritrovo sempre qui. Così. Ah. E rieccoci in onda e siamo subito collegati con Roberto, che a cui abbiamo chiesto, insomma, perché lui è uno dei promotori, sottoscriventi, poi insomma ci racconterà bene lui della legge per l'agricoltura contadina, che in questi giorni, per esattezza se non erro, poi chiedo a Roberto meglio, lunedì 17 è arrivata in discussione alla Camera. Roberto, ci senti? Sì, ci sento. Ecco, innanzitutto ciao. Grazie per essere con noi a Radio Contado e ti lascio la parola. Diciamo che il primo aspetto è provare a fare una estrema sintesi di questo percorso, ma poi soprattutto, come ho già detto, è meglio che poi mi fate delle domande su cose che vi interessa di più approfondire. Sarà fatto. Questo percorso da quanto dura? Cioè è iniziato tempo fa? Sì, allora, per capire, tutta questa iniziativa di cui oggi parliamo, che è arrivata all'aula della Camera dei Deputati, è partita nel 2009 dalla base, da un primo gruppo di una decina di associazioni di base a cui che rappresentavano piccoli contadini, cittadini organizzati sul tema dell'agricoltura contadina, appunto, l'idea di chiedere, o di una petizione era l'origine, per chiedere al Parlamento una legge nazionale a sostegno dell'agricoltura contadina, richiedendo sostanzialmente due cose fondamentali. Uno è il riconoscimento che esiste un'agricoltura di questo tipo e degli agricoltori definiti contadini che la praticano, e due, associare a questo riconoscimento anche delle norme a sostegno delle proprie attività quotidiane nella propria realtà di lavoro. Questo sono stati da sempre i grandi due pilastri che continuano ancora oggi a essere percorsi. Poi nel tempo questa cosa si è trasformata, perché si è partiti proprio da zero a cercare le istituzioni, quindi noi non abbiamo avuto nessun canale privilegiato per arrivare al livello parlamentare. Punto, premetto cosa molto importante, che la campagna per l'agricoltura contadina negli anni è sempre rimasta una campagna, cioè un'iniziativa su un obiettivo specifico di ottenere una normativa nazionale. Quindi di per sé la campagna contadina non raccoglie tutti gli obiettivi politici e pratici del movimento contadino e di tutti gli altri livelli che si praticano per portare avanti le questioni di un'agricoltura contadina. Questo è molto importante capirlo. Per cui tutte le realtà che sono disponibili a sostenere l'ottenimento di una legge nazionale possono aggregarsi e partecipare, al di là poi di tutto il resto che fanno, il resto delle battaglie politiche che ognuno fa sui territori o su altri piani. Questo è una premessa molto importante per capire l'evoluzione. È fondamentale, direi. Di questo discorso. Ovviamente poi le questioni normative sono state affrontate anche ad altri livelli, perché ci sono realtà locali che hanno cercato di ottenere normative specifiche nei singoli comuni, oppure azioni a livello regionale, tipica è la Toscana, esatto, con la sua legge per l'agricoltura contadina in Toscana, no? E quindi a me, poi oltretutto, che c'era, pare una conseguenza logica riuscire a lavorare anche a livello nazionale. Questo è stato finora, io faccio parte della campagna contadina, è completamente organizzata in forma di volontariato all'interno ci sono alcuni gruppi di lavoro, il gruppo legislazione, il gruppo comunicazione, è un gruppo di coordinamento che è un po' il portavoce nazionale. Sottolineo ancora il fatto che purtroppo questa campagna ha sempre avuto due limiti cronici. Uno è quello delle risorse economiche, per cui si lavora con risorse che sono irrisorie e questo non permette di fare tutta una serie di iniziative che sarebbe tanto bello fare a livello di comunicazione o di azioni sui territori, che è impossibile, non si riesce a fare. E quindi questo è sempre stato oggettivamente un limite. E poi nell'organizzazione interna, perché appunto essendo tutto volontariato si lavora come si riesce, quindi per me è già pregevole il fatto che tutta questa, pur con tutti questi limiti, si sia praticamente oramai 11 anni che si continua a lavorare in questa direzione. Come minima cronistoria ricordo solo che le prime proposte di legge che sono entrate in discussione in Parlamento risalgono alla legislazione precedente, al 2013, nella legislazione 2013-2017, grazie a quello che era stato all'epoca la lepre, come abbiamo chiamato noi, il primo che ha osato portare una proposta di legge sul tema contadino, che era stato Adriano Zaccagnini, con cui noi avevamo lavorato, dove era stato molto portavoce delle richieste della campagna, e si era arrivati a farla discutere nell'ambito della Commissione Agricoltura della Camera. Poi la legislazione si è chiusa e la cosa è rimasta lì. È stata ripresa con quest'ultima legislatura da un altro parlamentare simile ad Adriano, che invece è stata la Cugnal, alla quale poi sono seguiti altri due parlamentari che a loro volta hanno proposto altre proposte di legge, una a firma di Leo e l'altra del PD, poi la Commissione Agricoltura ha voluto unificare in un testo unico. Questo testo unico è stato discusso più volte e per la prima volta, questo è il passaggio innovativo dopo 10 anni, è stato approvato un testo unificato che proprio in questi giorni, appunto ne lo accennavo prima, si sta discutendo nell'aula della Camera. In particolare è già stato fatto un dibattito iniziale generale di presentazione e la prossima settimana, cioè in realtà la data è ancora incerta, se domani o lunedì prossimo, si dovrebbero discutere e approvare definitivamente, almeno in un ramo del Parlamento, questo testo unificato, fatto salvo che i parlamentari hanno ancora il diritto a presentare altri emendamenti, e proprio noi li abbiamo letti proprio questa mattina, ce ne sono alcuni che rischiano di essere peggiorativi del testo e speriamo che non passino, perché dovrebbero essere solo parte di una minoranza. Quindi il discorso è ancora aperto, siamo in una fase aperta e le carte in tavola possono cambiare o modificarsi da un giorno all'altro. Infatti ti volevo chiedere quanto secondo te della base che voi avete proposto viene in questo momento realmente considerata e quanto invece viene modificato in fase peggiorativa, cioè almeno la base, il tessuto che voi proponete, senti che verrà un pochino o viene discusso in una maniera positiva in questi giorni alla Camera? È stato discusso o ci sono delle grosse fatiche? E anche ti chiederei, collegandomi appunto a questa domanda, cioè secondo te che qual è il tuo sentire, cosa ti aspetti, qual è il quadro normativo che secondo te, diciamo in un riassunto, potrebbe venire fuori da questa discussione, come potrebbe essere giuridicamente inquadrata la figura del contadino? Sì, ma allora ci sono appunto la considerazione un minimo articolata. Allora tenete presente che nel 2010 le prime volte che siamo andati a parlare con dei parlamentari appunto alla Camera di queste cose, venivamo guardati come gente che parlava, non so, del terzo mondo o di qualcosa del passato. Oggi, solo una settimana fa, tutti i gruppi politici hanno parlato con parole positive dell'importanza dell'agricoltura contadina, no? Per capire come nel contesto difficilissimo di queste realtà sia stata acquisita una dignità perlomeno di linguaggio. Dopodiché in realtà non c'è una comprensione reale profonda da parte di tutti questi parlamentari di che cosa sia l'agricoltura contadina, e viene tirata un po' ognuno su interpretazioni parziali, e quindi questo è. Devo dire, rispetto all'obiettivo originario, dobbiamo essere coscienti che in questo momento si lavora su una cosa che è parziale, cioè il riconoscimento c'è tutto, e questo è, noi lo ritengo, per quello che come Campagna Contadina diamo un giudizio moderatamente positivo, premetto, in relazione ai rapporti di forza, questo dobbiamo capirlo, che è fondamentale. Quindi un parzialmente positivo sul fatto che la prima gamba, i due obiettivi c'è, esiste il riconoscimento dell'agricoltura contadina, quindi degli agricoltori che praticano determinate modalità di attività agricole, e che soprattutto possono essere materialmente riconoscibili iscrivendosi a uno specifico albo dell'agricoltura contadina, quindi è un modo per materializzare che ci sono questi soggetti, no? E quindi questo aspetto c'è, e tra l'altro si è riusciti anche a inserire, anche se ancora in modo parziale, una differenziazione importante nel mondo contadino, cioè tra i contadini che sono aziende agricole, cioè quelli che sono tutti quelli che sono iscritti all'INPS e hanno la partita IVA, che sono la grande maggioranza anche dei contadini dell'associazionismo di base, sì. Basta guardare, no, le nostre realtà intorno a noi, ma anche quella di riconoscere l'esistenza di agricoltori contadini che non sono aziende agricole, ma che lavorano la terra. Che è quello che, okay, ci riguarda più da vicino a noi come comunità di resistenza contadina, perché il problema nostro è che siamo tutti piccoli contadini, non siamo aziende. Allora, vi posso dire, cioè, se il testo rimanesse così, c'è uno spiraglio, non c'è la soluzione, ma c'è uno spiraglio dove per la prima volta una legge, se mai passasse, perché ci sono ancora altri passaggi da fare, una legge dello Stato italiano riconosce che esistono degli agricoltori contadini pur non aziende agricole, no? Però è un primo passo di riconoscimento, e che possono iscriversi in un registro. Allora, nel momento che c'è un albo dove si registrano delle persone che fanno attività di agricoltura contadina anche senza essere aziende agricole, che sono a livello normativo considerate minoritarie, no? Meno importanti, ma comunque sì, vengono riconosciute, dopo, io dico, se ci sarà la forza politica attraverso questo riconoscimento formale di ottenere poi dei sostegni sostanziali a quello che si fa, ben venga, ma abbiamo già un quadro in cui tu, se vai a parlare con qualcuno, non sei più un soggetto da libro cuore, ma sei un soggetto riconosciuto da una legge dello Stato italiano, no? Detto questo, il problema, appunto, il limite, e questo dobbiamo averlo chiaro, è che purtroppo la seconda gamba, quella delle norme a sostegno, nel tempo di questa discussione è stata molto falcidiata, e questo è stata ridotta. Noi abbiamo chiesto molte cose in più nelle prime proposte di legge, quelle prima inizialmente proposte da Zaccagnini, poi anche da Cuniale, eccetera. C'erano molte più richieste di norme a sostegno. Queste purtroppo sono nei rapporti di forza, dove quasi tutto l'arco costituzionale continua a considerare l'attività agricola come un'attività strettamente imprenditoriale, e quindi tentano continuamente di ricondurre tutte le norme a quelle degli imprenditori agricoli. C'è stata molta guerra su questo. Teniamo conto che uno dei principali, la principale organizzazione professionale agricola, come Coldiretti, ha sempre osteggiato una normativa che differenziasse e che specificasse qualcosa di diverso per l'universo contadino. Ma perché, come dicevi te, comunque questi sindacati di categoria come la Coldiretti, cioè chi si approccia a loro sono soprattutto imprenditori agricoli, quindi loro tendono a difendere solo gli interessi delle aziende agricole. Volevo chiederti, infatti, qual è il ruolo delle associazioni di categoria all'interno di questo, come si posizionano rispetto a questa cosa qua, e poi come cercano di influenzare, quali sono le influenze che possono avere in questo processo. Le organizzazioni agricole sono tutte concordi, monocordi sulla dimensione dell'agricoltura come imprenditore agricolo, e quindi è sempre di più in una forma di impresa, neanche tanto solo quella di coltivatore diretto, perché dobbiamo dire che il coltivatore diretto è sempre il singolo che con la maggior parte del proprio lavoro gestisce direttamente la propria azienda, e quindi quello è coltivatore diretto dagli anni 40 eccetera, solo che ha sempre preso di più la dimensione di impresa, cioè l'impresa agricola condotta da un imprenditore che potrebbe anche non lavorare la terra ma semplicemente dirigere. Mm-hmm. E quindi oggi sotto il termine imprenditore agricolo ci stanno dentro sia i grandi sia i piccoli. La maggior parte delle nostre realtà contadine, delle nostre associazioni intorno, anche da voi in Toscana come in Emilia Romagna come dappertutto, che sono aziende agricole, legalmente sono equiparate agli imprenditori agricoli, ci chiamiamo tutti imprenditori agricoli, su questo c'è poco da fare. Se hai la partita IVA, se sei iscritto all'INPS, sei oggettivamente per la legge italiana un imprenditore agricolo. Ora noi quello che vogliamo, abbiamo sempre avuto, e quindi loro della questione contadina, di differenziare, non gliene è mai fregato niente, perché loro tendono a unificare, e quindi hanno sempre prima ignorato e poi dopo osteggiato una qualsiasi normativa che differenziasse, cioè tendesse a dire esistono modelli agricoli diversi, quindi dobbiamo differenziarli, e quindi i soggetti che fanno attività, perseguono modelli agricoli diversi devono essere differenziati e avere normative specifiche. Vi faccio un po' l'esempio, anche se è molto limitativo, quindi prendetelo con le molle, la differenza che c'è fra l'industria e l'artigianato. No? Sì, sì. Allora, le sedie possono essere prodotte in un'attività industriale con 1000 operai in stabilimenti sparsi per il mondo, oppure da un piccolo artigiano in una sua bottega con la sua famiglia. Solo che uno è artigiano e l'altro è industriale. Mentre invece oggi in agricoltura non esiste questa differenza, esiste solo l'agricoltore, come se fossero tutti agricoltori industriali, anche l'artigiano, ok? E quindi c'era questo problema di differenziare a livello di legge, e quindi di diritti, e quindi di come dire, di sostegno, di sostegno. Ma questa secondo legge... te che fastidio danno questi piccoli contadini? Perché c'è così fatica, no, a voler riconoscere e accettare esistono delle attività, cioè, gestite in una maniera diversa? Vabbè, ma qui dovremmo fare una lezione sulla concentrazione capitalistica, che sull'economia neoliberista in generale, cioè tutto tende a diventare più grande e assorbire le piccole dimensioni, a meno di situazioni particolari che però di cui la nostra Italia è ricca, cioè la differenziazione del territorio, perché la dimensione contadina continua a esistere, perché il territorio è così differenziato che in tante realtà come dire, la concentrazione capitalistica dell'agricoltura non funziona direttamente. Esatto. Però c'è il problema che la microazienda contadina è comunque massacrata dall'esterno, nel senso che deve sottostare alle imposizioni neoliberiste dall'esterno, cioè per i costi, per le leggi che gli vengono imposte, eccetera, eccetera, eccetera. No, però qui dovremmo entrare in un'analisi sociologica dell'agricoltura che però non abbiamo tempo di fare. Beh, volevo farti un'altra domanda. A noi comunque, cioè nel senso, ci interessa molto, come dire, una dimensione che è quella appunto del locale, dello strettamente vicino a noi, dei rapporti di prossimità, sia di produzione che poi le relazioni tra i vari produttori contadini nel nostro caso. E secondo te c'è una possibilità tramite questa legge per riuscire a fare quello che tanti stanno facendo in maniera più tranquilla, cioè riuscire ad associarsi tra piccoli produttori, avere una gestione locale delle produzioni, mercati, per esempio gli albi, c'è una possibilità che vengano gestiti a livello comunale, cioè qual è poi quale poi la possibilità di continuare un percorso che magari è un percorso di autonomia che è portato avanti da tante organizzazioni di piccoli contadini a livello locale e in maniera più tranquilla, cioè è possibile che una legge nazionale dia dia forza a tutto questo? Ma allora io adesso mi prendo anche la responsabilità di dirti soprattutto la mia opinione all'interno di questo percorso, perché noi siamo una micro, cioè, teniamo ad avere una voce collettiva, quindi sarebbe bello risponderti collettivamente. Io però ti posso dire che seguo fin dall'inizio questa campagna, che secondo me dobbiamo anche nel nostro percorso alternativo dobbiamo fare molta attenzione sul tema del agire locale, no? Nel senso che un concetto base di questo percorso che si è tentato di fare, si sta facendo, è riuscire a dare dei diritti comuni ai contadini in qualunque regione siano, no? Perché questo è importante, cioè che il contadino pugliese riesca ad avere gli stessi diritti del contadino piemontese, no? Okay? E quindi un quadro che sia comune a tutti e che poi possa servire per le proprie lotte e rivendicazioni locali. Ma qui e nello stesso tempo chi fa una lotta locale deve capire che può avere più forza se questa rientra in un quadro nazionale e anche, mi permetto di dire, anche internazionale. Cioè se 2 anni fa l'ONU ha riconosciuto la Carta dei diritti dei contadini come diritti umani, e questo è fondamentale, è una roba che non l'ha inventata qualche funzionario burocrate dell'ONU, è stata frutto di un lavoro ventennale dei movimenti contadini internazionali che hanno portato a quello. E questa roba qui è un quadro che serve al contadino indiano, a quello brasiliano e a quello toscano. È una norma comune che ti costruisce quella che era una volta la solidarietà internazionale e che cade a livello territoriale. Quindi anche in Toscana o anche da me in Piemonte o da un'altra parte, poter dire ma io mi riconosco e parlo nella dichiarazione dei diritti dei contadini dell'ONU è uno strumento importante, tu mi identifica, mi riconosce, mi dà un valore formale così, etico-politico, però su quello posso poi costruire con maggior dignità una rivendicazione politica locale. Quindi io credo che sia necessario tenere strettamente legati le due cose, anche se oggi questo testo di legge, a te che sei in Toscano da un'altra parte, non ti risolve immediatamente come una bacchetta magica tutti i tuoi problemi, però ti permette di andare a un confronto politico col tuo sindaco, dicendogli ma qui c'è una legge nazionale che mi riconosce. Okay? E oltretutto, se saremo capaci, e questo dipenderà da noi, perché, e questo ci tengo a dirlo, non è che una volta fatta la legge il problema è risolto, una volta fatta la legge potremmo avere uno strumento in più per organizzarci collettivamente, e se non lo faremo sarà cavoli nostri, quella legge resterà lettera morta, nessun problema, non sarà certo col diretti a mantenerla in vita, saremo noi. E quindi se viene istituito un albo degli agricoltori, i contadini, allora se ci si iscrive lì si può fare numero e fare forza collettiva e può servire a livello locale. Poi è certo che a livello locale puoi rivendicare delle norme più specifiche, mm-hmm, che ti servano a te immediatamente. Tenete però conto anche perché l'agricoltura in Italia è delegata nelle sue istituzioni operative alle regioni, per cui anche questa legge nazionale dovrà rimandare alle regioni poi il dettaglio di alcune norme. Delle norme attuative, sì. Okay? Quindi è un gioco su più tavoli che però, secondo me, se si ha l'intelligenza politica di farlo, crea una sinergia. Chiarissimo, non so se... Roberto, sì. Senti, noi intanto ti ringraziamo. Io avevo giusto un altro paio di domande. Uno è dove i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici possono trovare approfondimenti sulla legge dell'agricoltura contadina? Avete un sito, avete un canale? Sì, esatto. Allora, appunto, come dicevo, essendo poveri di mezzi, però comunque adesso da qualche mese è stato rimesso un po' in funzione bene un sito che è agricolturacontadina.org su cui si può trovare aggiornato il tutto lo storico della campagna, comprese anche, adesso pian piano stiamo mettendo questi documenti delle commissioni e del aggiornato al 13 maggio, no, per dirvi. Stiamo aggiornando man mano che arrivano anche i documenti in modo che uno possa cercare di tenersi aggiornato. Perfetto. E c'è poi citato anche una mail in caso che qualcuno voglia contattare. Esatto, magari per partecipare al consiglio o dare suggestioni. Noi magari ci impegniamo, come già ti chiedevo insomma al telefono ieri, di tenerci in contatto così passo dopo passo, se ci sono delle grandi novità nel bene o nel male, insomma ci potrai aggiornare. Sì, d'accordo, perché siamo al massimo, se ben che vada siamo a metà del guado, quindi esatto, c'è ancora di strada. Immagino di sì, ma il prossimo appuntamento dicevi non c'è una data ancora precisa, però può darsi che settimana prossima. Ma no, sicuramente a breve ci sarà la discussione finale in aula alla Camera con la votazione di questo testo. Una volta che sarà votato e approvato dalla Camera dovrà iniziare l'iter al Senato. Che è l'altra metà del discorso, esatto. E lì ci sarà da affrontare ancora un'altra odissea, per cui come dire, se ce n'è ancora di lavoro da fare e di sostegno ce n'è bisogno anche per il prossimo futuro. Assolutamente. Intanto noi ringraziamo te e insomma e tutti i membri di questa campagna, perché appunto a titolo di volontari state portando comunque avanti una lotta che riguarda un po' tutti noi piccoli contadini. E quindi grazie infinite per il vostro impegno. Grazie a voi per lo spazio, buon lavoro. Ci sentiamo presto, grazie sì, Roberto. D'accordo. Ciao. Buona giornata. Ragazzi, qualcosa si smuove, ma mi viene da dire che siamo ancora ben lungi, soprattutto dall'idea e dall'immaginario di contadino che abbiamo noi altri, che è la cosa più osteggiata in assoluto. Io poi davvero capisco se siamo in un mondo capitalistico, ma non capisco a chi può nuocere così gravemente la figura del contadino, e soprattutto forse dovremmo seriamente pensare di iniziare a fare i nostri presidi non sotto la regione, ma forse sotto la Coldiretti o la CIA. Tutti questi sindacati che osteggiano veramente in maniera impressionante tutte insomma le minime proposte. Però va bene, guardiamo il lato positivo, che piano piano qualche varco si sta aprendo, e su questi piccoli varchi noi poi cercheremo di fare le nostre piccole rivoluzioni o rivendicazioni o richieste. Va bene. Creatures come out every night. They try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to eat, they will answer in voices so sweet. You will eat by and by, in that glorious land and in the sky. Way up high, work and pray, pray them on hay. Jumpers come out, and they preach and they jump and they shout. And give your money to Jesus, they say, and you'll eat on that glorious day. we'll try to get something good in this life. You're a sinner and a bad one, they tell. And when you die, you will go straight to hell. Straight to hell! But you'll leave by and by. By and by. In that glorious land in the sky. Where pie, work and pray. Work and pray. Live on hay. Live on hay. Working boots of all countries unite. Side by side we for freedom shall fight. When this world and its wealth we've gained, to the great rafters we'll sing this refrain. You will eat by and by. When you've learned how to cook and how to fry. Bake a pie, chop some wood. Chop some wood. It'll do you good. It'll do you good. And you'll eat in that sweet by. Ed eccoci qua. E per dimostrarvi che noi non molliamo, e prendendo spunto da quello che diceva anche Roberto, no? Ci possono essere dei movimenti a livello nazionale che cercano di far cambiare qualche piccola cosa, noi continuiamo e tartassiamo a livello locale. E quindi adesso manderemo il contributo riaggiustato, riarrangiato, direi così, da Ercamicia sull'incontro che si è tenuto venerdì in Piazza Tasso. Buon ascolto. Incontro di una serie di incontri che si chiamano Oltre il Mercato, che come comunità di resistenza contadina, ma ancora come CCCT, quindi coordinamento delle comunità contadine toscane, abbiamo deciso di organizzare per portare un pochino la nostra voce nei luoghi dove facciamo i mercati o dove ci auspichiamo che potrebbero nascere dei nuovi mercati. Quello che noi vorremmo portare avanti sono tutta un'istanza della figura del riconoscimento del lavoro che viene fatto costantemente da tutti noi, e quindi da contadini, produttori, piccoli artigiani, piccoli allevatori, eccetera, nel voler avere un rapporto con la città che è costruttivo. Quindi venendo ai nostri mercati, chi vende vende le sue cose, i suoi prodotti, quindi si fa conoscere e si espone in primo luogo. Seconda cosa, l'importante è che i mercati divengano un luogo di condivisione e di socializzazione di valori che secondo noi sono indispensabili, soprattutto in questo periodo storico. Io vi racconto, provo a raccontarvi brevemente un po' come nasce il coordinamento delle comunità contadine toscane, un po' a che punto stiamo. In questo ultimo anno soprattutto abbiamo sentito parlare tanto, adesso abbiamo pure un ministero che dovrebbe occuparsi di transizione ecologica. E noi sia come mercato che come Genuino Clandestino e da maggio come coordinamento delle comunità contadine toscane stiamo parlando soprattutto e anche di transizione ecologica. La transizione ecologica sappiamo benissimo che non avverrà attraverso il greenwashing, che non avverrà attraverso recuperare moltissime attività che sono state da sempre attività contadine, attività comunitarie, come appunto il mantenimento dell'ambiente, la vita di comunità, l'agricoltura contadina. Ecco, di questo abbiamo cominciato a parlare a maggio scorso, dopo la prima ondata appunto di lockdown, di pandemia, in cui abbiamo visto come questi mercati, incluso Piazza Tasso, abbiano assunto un ruolo fondamentale sia per l'accesso al cibo contadino in città, sia appunto per mantenere un presidio costante e attivo e una possibilità non solo di lavoro ma di inserimento all'interno di quelli che sono appunto contesti comunitari, di decisione collettiva, di presa di parola dal basso. Da mesi ormai chiediamo alle istituzioni locali, al comune di Firenze, ai vari comuni in cui il coordinamento si sta dispiegando, quindi Pistoia, Prato, dal Mugello, Pontassieve, Pisa, eccetera eccetera, stiamo chiedendo delle cose molto chiare, molto semplici. Noi, come tante altre, al contrario di tante altre categorie che sono state favorite in questi ultimi mesi, non ci è stato concesso neanche un dialogo né con la regione né con i comuni per quanto riguarda l'accesso alle piazze e la cessazione del pagamento del suolo pubblico. Noi consideriamo questo mercato un servizio alla comunità, pensiamo che tutte le persone che partecipano a questo mercato, che non è solo un mercato ma un momento appunto, come spiegava Maddalena, di aggregazione, di costruzione, anche di presa di parola collettiva, questo mercato non debba rifarsi a quelli che sono i canali generici a cui tutti i mercati fanno riferimento, ovvero quello del, del suolo pubblico, della, della fruizione attraverso appunto questi, questi tipi di canali. Chiediamo il riconoscimento delle comunità contadine. Noi non possiamo accettare, questo lo diciamo da anni, non possiamo accettare che, di essere diciamo, riassunti per quello che riguarda la normativa alle stesse normative che riguardano le grandi aziende, che riguardano, che riguarda la grande distribuzione organizzata, che riguarda la, l'industria del cibo, dell'agroindustria, appunto le grandi aziende, le grandi fabbriche del cibo. Non è possibile per noi accettare il fatto che appunto questi colossi che si interfacciano con la grande industria, con la grande distribuzione organizzata, abbiano le stesse regole che abbiamo noi. Noi questo lo chiediamo da tanto, lo diciamo da tanto e ci organizziamo perché non sia così. E quindi appunto in tutto questo periodo molto particolare, dalle contraddittorie sanatorie della ex ministra Bellanova a, appunto a tutto quello che riguarda il grande processo di sfruttamento e di devastazione del clima, del suolo, dell'aria che l'agroindustria provoca nei nostri territori, noi chiediamo se non altro di essere ascoltati dalle istituzioni regionali quanto locali, che fino ad oggi sono rimaste sorde alle nostre richieste ma anche alla possibilità di un dialogo. Quindi oggi rinnoviamo attraverso questo ciclo di iniziative che si chiama appunto Oltre il Mercato la possibilità di costruire insieme ai movimenti ecologisti, insieme alle tante e tanti che tengono a questo modello, a un modello alternativo di produzione ma anche un modello alternativo di vita che metta davanti la cura reciproca, la cura della comunità, che metta davanti non il profitto ma appunto la costruzione di processi partecipativi di una ricchezza che non sia suddivisa in maniera totalmente impari. Ecco, quindi rinnoviamo questo invito e ora magari la settimana prossima saremo a Pistoia e quindi invitiamo le compagne e compagni di Pistoia a spiegarci un po' la prossima settimana cosa avverrà, che cosa stanno portando avanti e appunto questo percorso non finirà né a Pistoia, ci sarà un altro appuntamento il 29 di maggio in San Nicolò, dove costruiremo un altro percorso appunto per l'accesso alle piazze, perché oggi è quello che ci viene negato. Ciao, allora io parlo a nome del gruppo che sta nascendo a Pistoia e in realtà la nostra storia è molto complessa. Sicuramente diciamo questa situazione di contorno non aiuta a far sì che nasca un mercato, perché noi è quasi praticamente dal 2019 che stiamo cercando di far nascere un mercato a Pistoia e abbiamo provato con varie realtà, da Circoli Arci a un ristorante che è all'interno di un parco di Pistoia che è molto centrale, e addirittura abbiamo provato anche a rivolgerci a uno spazio di una parrocchia. Ecco, diciamo, più e più volte ci siamo sentiti dire prima sì e poi, per motivi che in qualche modo capiamo che non sono reali, si sono trasformati in un no. Quindi ad ora noi abbiamo fatto pochissimi mercati, siamo una decina, quasi una quindicina di produttori, cerchiamo in qualche modo di avere tutto, perché abbiamo dalle verdure al miele, al pane, al formaggio, prodotti erboristici, quindi insomma cerchiamo di fare un mercato che in realtà racchiuda un po' tutti i bisogni alimentari e non solo. Però ecco, ad ora Pistoia si vede come una città che ha veramente molte difficoltà a trovare uno spazio per noi, probabilmente perché portiamo un nome che non piace, che è quello di Genuino Clandestino, quindi le amministrazioni appena leggono questi due nomi probabilmente stringono i denti, soprattutto a Pistoia, dove l'amministrazione è un'amministrazione che sta sicuramente da una parte che non ha un buon occhio per chi sostiene, diciamo, questi tipi di valori. Quindi quella che è la situazione da adesso è che domenica organizziamo dalle 10 alle 16 una degustazione, perché questo è l'unico modo che ci hanno permesso di inventarci, diciamo, per fare una sorta di mercato, di dimostrazione di quelli che sono i nostri prodotti contadini. Quindi questa degustazione la troverete al Parco di Monte Oliveto, in centro a Pistoia, dalle 10 alle 16, domenica. E mentre il 23, insieme al coordinamento contadino, che per noi è una grandissima risorsa perché ci permette di avere delle persone che come noi stanno comunque seguendo un percorso e quindi ci dà modo, diciamo, di confrontarci continuamente con loro, di poter chiedere aiuto, di poter chiedergli oh, ma come si fa in questa situazione in cui l'amministrazione ci dice no, in cui anche il privato ci dice no, anche il prete ci dice no, dicendo che il suo avvocato ha detto che noi non possiamo in qualche modo fare un mercato perché il giardino non è agibile. Quindi insomma il CCCT ci sta aiutando, come ci sta aiutando Genuino Clandestino, come ci sta aiutando Mondeggi, insomma, a sostenerci. E quindi il 23 ci troviamo alle, diciamo, dalle 3 alle 3 e mezzo per fare un'assemblea pubblica in cui abbiamo inviteremo a breve, perché abbiamo scritto una bellissima letterina per gli assessori di Pistoia e per il sindaco di Pistoia, che sono caldamente invitati a partecipare, così come sono invitati, insomma, tutti i cittadini, che in realtà qualcuno ci sostiene, perché poi questi cittadini di Pistoia vengono da noi a comprare i prodotti nei pochi mercati che abbiamo fatto. Quindi c'è una richiesta, c'è la voglia di mangiare alimenti sani e genuini e che insomma hanno dietro anche tutta una serie di valori che non sto a ripetere. Quindi volevo riportare il discorso anche sulla giornata di 29, perché intanto come mai è importante così che ci sia questo collegamento fra le lotte e le vertenze che ci sono sul territorio per in qualche maniera fermare le grandi opere, queste grandi opere distruttive che comunque non portano benefici solo a pochi e disagi per tutti. Che cosa c'hanno a che vedere con la questione contadina? È molto semplice, non si può parlare di sovranità alimentare, di autodeterminazione alimentare, se non si parla anche di autodeterminazione territoriale, cioè quando qualcosa accade sul nostro territorio noi non possiamo essere scavalcati costantemente dagli interessi dei portatori di interesse, che appunto sono quelli che poi portano i vari politici, i vari decisori politici al momento di poter decidere per noi. Questo quindi è importantissimo. La questione contadina è legata alle vertenze territoriali, perché è una vertenza territoriale anche quella, è sottrarre terreno alla grande distribuzione, sottrarre terreno all'agroindustria è una cosa che è una lotta contro una grande opera inutile, che è quella della produzione industriale del cibo. Quindi per questo siamo legati è importante far comunque unire queste vertenze per poter fare una voce unica di persone che dal basso in qualche maniera tentano di poter dire la loro e fermare questo scempio di cui ci ha parlato bene Marzio. Ecco, il 29 sempre abbiamo come coordinamento delle comunità contadine abbiamo questa iniziativa che è nel quartiere di San Niccolò, perché è un punto dove appunto, come diceva Antonio, stiamo tentando di creare un nuovo mercato rionale, un nuovo mercato tipo questo, che ha in qualche maniera si vuole relazionare con quei residenti, si vuole relazionare con la cittadinanza che vive in quella zona e avere la possibilità da parte nostra di poter far accedere produttori nuovi, perché noi con questo mercato di Piazza Tasso che 3 anni sta andando avanti e sta progredendo e abbiamo costantemente nuove richieste di produttori che vedono la possibilità di poter accedere a uno scambio con la cittadinanza per poter portare i propri prodotti seguendo quelli che sono i principi di questo tipo di mercati. Ecco, queste persone che ci chiedono costantemente: abbiamo bisogno di nuovi spazi, abbiamo bisogno di nuove piazze, e riteniamo che sia fondamentale ottenere delle piazze pubbliche, ottenere le piazze che sono già nostre, nel senso che gli amministratori che in qualche maniera sono obbligati, comunque il loro mandato gli fa sì che debbano gestire questi spazi, non possono non tener conto delle esigenze della cittadinanza. Le esigenze della cittadinanza sono anche queste, quindi accesso alle piazze è una cosa importante che noi pretendiamo e vogliamo con forza, attraverso anche azioni che possano diventare conflittuali con l'amministrazione quando in qualche maniera decide di non ascoltarci, o comunque di rimandare, o comunque di mediare sempre alla meno questo tipo di iniziative. Quindi il 29 mattina, che è un sabato, a San Nicolò, esattamente alla piazza Poggi, faremo questo presidio, dove ci ritroveremo, porteremo i nostri prodotti, porteremo le nostre cose, porteremo il nostro materiale informativo, che sono i nostri prodotti, quello che si fa nei campi, e lo in qualche maniera cercheremo di distribuirlo e di avere un primo contatto con la cittadinanza di quella zona. Quindi non è prevista in nessun modo nessuna normativa che prevede un percorso alternativo, cioè un percorso fatto in autogestione da un gruppo da una comunità che intorno alla terra, quindi intorno alla terra coltivata da un gruppo di contadini con i quali sono in contatto, possa usufruire di uno spazio, se non passando attraverso un iter burocratico che è il commercio sul suolo pubblico. Noi non facciamo commercio sul suolo pubblico, facciamo un altro tipo di attività che è anche un servizio alla cittadinanza, e riteniamo che l'amministrazione debba avere questa sensibilità di capire questa differenza e di prendersi le responsabilità. Questi appunto erano gli interventi dell'iniziativa che è stata promossa dal coordinamento contadino toscano in piazza Tasso, e ricordiamo che la campagna per l'agricoltura contadina continua, e in particolare un evento simile, come anche emergeva da alcuni interventi, si ripeterà a Pistoia questa domenica, e quindi invitiamo tutte e tutte a parteciparvi. E come avete sentito prima dall'intervento fatto da Martina, una delle produttrici pistoiesi, serve più che mai il supporto di tutti, visto che Pistoia pare essere un territorio particolarmente ostico a ospitare il coordinamento delle comunità contadine toscane, ad ospitare Genuino Clandestino e tutti i produttori che insomma si fanno un gran mazzo. Ma come, mi ricordo da Macara Ostica anche Piazza Tasso all'inizio, ma poi, con un po' di costanza, con un po' di resistenza si può fare tutto. Resistenza. E su questo bellissimo sottofondo musicale ci apprestiamo a chiamare la nostra Clio, che finalmente ritorna a portarci un po' di resistenze passate non delle nostre cuoche ribelli. Ciao. Ciao Clio. Ciao. Bentornata su Radio Contado. Abbiamo sentito tantissimo la tua mancanza. Ciao Clio, ciao. Come mi siete mancati? Ciao. Come stai? Bene, dai. Non mi lamento. Bene Clio, noi finora abbiamo parlato di campagna per l'agricoltura contadina, abbiamo parlato degli eventi a sostegno dei contadini della CCTCT e quindi abbiamo parlato di resistenza e insieme a te insomma vorremmo continuare a parlare di resistenza con le nostre donne cuoche ribelli. Cosa ci racconti oggi? Allora, se posso permettermi, intanto vorrei fare un omaggio prima di leggere quello che sarà l'addio di oggi a Nadine, perché la guerra sta finendo, e vorrei fare un omaggio a tutte le persone che tutti i giorni combattono una propria guerra, che sia individuale o collettiva, anche se la storia poi non gliene renderà merito. E invece, per quanto riguarda coloro a cui la storia fortunatamente un po' di merito gliel'ha reso, torniamo a Nadine e la situazione è un po' tragica. Ormai siamo agli sgoccioli, i franchisti hanno preso quasi tutta la Spagna, la famosa frase "no pasaran" in realtà ormai si tramuta in "sono passati", ed è stato anche lo smembramento fra l'alleanza fra comunismo e anarchia che li ha fatti passare. E allora vi leggo le ultime pagine di Nadine. Per addolcire il tutto la ricetta sarà la leche fritta, nel latte fritto, un dolcino. Allora, nella comune abbiamo scelto di non parlarne, ma per tutti noi, con la scomparsa di Durruti, sono svanite le speranze di una rivoluzione libertaria in Spagna. Abbiamo saputo della sua morte il 21, due giorni dopo. Era stato colpito alla periferia nord di Madrid, in ritorno da un'ispezione al fronte, ma le circostanze, come capita in questi avvenimenti, sono ancora oscure. Una prima versione parlava di una fucilata di un cecchino, ma il tiro era stato troppo perfetto per essere credibile. Tra l'altro era sempre circondato da guardie del corpo ben addestrate e con il dito incollato sul grilletto. Poi si parlò di una tragica fatalità, uno sparo nel buio, infine di un attentato ordito dai cecchisti. Juan è amareggiato e inferocito. Nadine, mi dice, qualunque cosa racconteranno e scriveranno, ricordati sempre questo: Buenaventura è caduto sotto il peso di due circostanze fatali. Una guerra civile che non aveva davanti a sé altro che un governo fantoccio filo sovietico e un esercito diretto dall'estrema destra, appoggiato dalle potenze europee con armi, capitali e coperture diplomatiche. Quanto alle circostanze, Chica valuta questo: Durruti era arrivato a Madrid il 15 con una colonna di 1800 uomini, dei quali più di 1000 morirono nei primi due giorni di attacco. Egli aveva in mente un colpo disperato: svuotare le casse della banca centrale per rifinanziare l'armamento della rivoluzione libertaria, un progetto che realizzarono i bolscevichi al suo posto qualche giorno dopo la sua morte, spedendo il tesoro della nostra Repubblica in Russia. Sai, Chica, da dove nacque l'indecisione di Durruti? Dal fatto che preferì prima accorrere in difesa della città universitaria, dove la migliore gioventù di Spagna stava cadendo sotto i colpi dell'artiglieria franchista. Per fare la leche fritta, caldate senza farlo bollire un litro di latte con 5 cucchiai da cucina di zucchero, 2 baccelli di vaniglia, la scorza grattugiata di 2 limoni e un'arancia, un chiodo di garofano. In un recipiente sciogliete 160 g di burro con 300 g di farina bianca setacciata. Versateci sopra a filo il latte che avrete filtrato e cuocete il tutto a bagnomaria per almeno una decina di minuti, che il composto non comincia ad addensarsi. fuori dal fuoco, unitici 7 tuorli d'uovo freschissimi, un sospetto di noce moscata e un paio di cucchiaini di brandy. Mescolate il tutto con cura fino ad ottenere una crema chiara ed elastica. Fatela raffreddare per almeno 6 ore. Al momento di usarla, tagliatela a piccoli rombi, bagnateli nel tuorlo di un paio d'uova, passateli in una farina di mandorle e friggeteli in abbondante strutto. Mentre sgocciolano, cospargeteli di zucchero a velo, serviteli subito. Una meraviglia. Quindi, ci voleva sì, un po' di dolce. Un po' il dramma. Ci vuole. Ci vuole, ci vuole. Io andrei avanti così perché la morte di Durrusi sicuramente ha segnato un anche simbolicamente il declino di quella che era la rivoluzione libertaria o la liberazione della Spagna, e siamo verso la fine del 39 adesso, verso dicembre. Siamo andati all'assalto, cantando, tra i fiori e i venti profumati dell'estate. Adesso stiamo assistendo, impotenti, alla fine. È stato tutto un sogno, ripete Juan, un sogno antico e necessario a cui non siamo stati capaci di conferire la saggezza dei fatti e l'evidenza della storia. Ma molti, un giorno, dovranno chinare il capo e vergognarci per averci abbandonato. Gli addii sono lunghi e tristi. I compagni delle brigate internazionali se ne stanno andando alla spicciolata di malavoglia ed è un po' come morire. Le nostre truppe sono ritornate sulle posizioni di partenza, battute. Non hanno più né gli uomini né i mezzi per una nuova offensiva. Ieri ho visto 2 reparti giocarsi a pallone 3 mitragliatrici Bergmann e 5 casse di cartucce. E che dovevamo fare, cica, spararci addosso? Come dice José, anche il compagno Zimrowski ha tirato i cordoni della borsa e neanche più un'arma entra in Spagna per noi. Natale alle porte e abbiamo deciso di preparare un po' di frittelle. Lei prova a scrivere ancora appunti, ma si ferma perché in questo momento hanno tentato gli ultimi assalti, ma sono stati pressoché inutili, e quindi l'unica cosa che resta da fare è aprirsi la via per la fuga. E infatti l'ultima pagina che scrive è: riprendo questi appunti con le mani che tremano. Quello che non avrei mai voluto sentire è accaduto stanotte, 26 gennaio 1939. Barcellona è caduta. La resistenza è stata fiacca e il nemico è potuto entrare in città, occuparla e continuare indisturbato la sua manovra verso ovest. Il comando del gruppo di armate che era restato per la difesa si è sciolto al sole, eppure l'aviazione franchista non ha operato che sul porto di Montjuïc. Guglielmo, che ci ha raggiunti, ci ha raccontato che i viveri erano ancora abbondanti e che la distribuzione di armi al popolo è proseguita per tutto il tempo, ma oltre alla paura, la situazione era a tal punto compromessa che appena le armi arrivavano in mano alle unità, queste andavano all'attacco, senza coesione, senza istruzioni, senza disciplina, senza quadri, senza appoggi sufficienti. Tutto il contrario del novembre del 36. Un gruppo di incontrollati ha cercato di prendere il comando dell'esercito allo sbando, ma non ce l'ha fatta. Per di più, le strade erano deserte e molte case sono finite per servire da rifugio ai disertori provenienti dal fronte. La nostra comune non c'è più. Una bomba ha centrato l'edificio, incendiandolo. Mentre scrivo queste note, mi viene comunicato che sono stata inclusa nella squadra di scorta ad un gruppo di delegati che devono assolutamente raggiungere Figueiras. Dopo qualche tentennamento rifiutiamo l'ordine, a muso duro, perché sappiamo che questa rappresentanza delle Cortes non va a chiedere la pace per il proletariato di Spagna, ma la resa per avere salva la vita. Ci riuniamo in assemblea, Rodrigo, Julio, Bernardo, Carlos, Severino, Luis, José, Diego, Paco, Juan, Maria, Manuel, Juan, Mingo, Joseph, Ramon, Vincent, Louis, Guglielmo ed io, i sopravvissuti. Se accettiamo la missione e obbediamo agli ordini, forse salviamo la vita. Ma quale vita ci aspetta? Quan propone di proseguire a combattere limitandoci all'autodifesa, muovendoci verso il confine con la Francia, tornare ad essere bandoleros. Ci dividiamo in tre squadre, ci scambiamo indirizzi e promesse. Per l'ultima volta dividiamo il cibo, le armi, le munizioni, i medicinali, le lacrime e il giuramento che non finirà qui. Per l'ultima volta ci abbracciamo e ci dividiamo una bottiglia di vino. Noi pochi felici, noi banda di fratelli. Grazie. Grazie Nadine e grazie Clio che ci hai insomma travolto in questo racconto, in queste memorie. Sì, e visto che prima parlavi di resistenza e del fatto della comunità di Jerome Laronze, Nadine in una lettera che manderà dopo quando è un esule, come dice lei, senza una terra, senza una casa, senza una famiglia, senza i sogni, e anche se l'esilio è volontario, è pesante, invita tutti sempre e comunque dicendo: spetta a noi tutti il compito di inventare nuove resistenze, che siano armate o meno. Bellissima frase, concordiamo. Allora, con Nadine abbiamo concluso con le ricette spagnole, con la guerra civile, e dalla prossima volta spalanchiamo un tema un po' più leggero legato alla cucina, che è legato alla sessualità, che è legato al corpo e ai sensi. Quindi mi è piaciuto tantissimo regalare un pezzo di storia, che ovviamente non è la mia, ma farmi portavoce di un pezzo di storia a cui sono molto cara, e quindi vi ringrazio tantissimo. E noi ringraziamo te chiaramente per questo appunto ultimo ciclo di Nadine, appunto ambientato durante la guerra di Spagna, ricordo di quel periodo. Ricordo anche che chi volesse andarsi a riascoltare le puntate precedenti le può trovare sul sito di Radio Wombat, radiowombat.net, in podcast. Non solo tutta la storia di Nadine, perché ovviamente abbiamo dovuto fare una selezione sia delle ricette che dei racconti all'interno della raccolta Cuoche Ribelli, e in realtà è anche singolarmente come la cuoca di Buenaventura Durruti. Quindi tutti i riferimenti per chi vuole proprio leggere dall'inizio alla fine le memorie di Nadine. E anche cimentarsi nelle ottime ricette da lei proposte. Yeah. Ci vorrebbe raccontare ancora qualcos'altro o ci riaggiorniamo? Come volete, se volete vi posso leggere la lettera di Nadine, altrimenti ci riaggiorniamo la prossima volta con l'agliende e con la cucina impudica. Vabbè, se vuoi leggerci la lettera di Nadine in conclusione, così insomma allora la salutiamo poi definitivamente. Nel febbraio del 39 abbiamo sentito che la guerra, tra virgolette, ormai è finita, non si può più combattere, è stata una guerra sporca, per quello dicevamo anche l'altra volta, perché c'è stata tanta diffamazione, tante costruzioni sbagliate, dicerie sbagliate a riguardo, quindi non è stata una guerra equa, tra virgolette, semmai le guerre possano essere eque. E lei alla fine ha rifiutato di aprire la strada a delle delegazioni spagnole del vecchio governo, perché non credeva più che avrebbero lavorato a favore del popolo, ma probabilmente andavano semplicemente a salvarsi per se stessi, dimenticando il popolo. Quindi lei, come tanti altri, sono semplicemente scappati, hanno rifiutato gli ordini, sono diventati dei cani sciolti. E scrive a un'amica dall'esilio: da oggi sono un esule, senza una terra, una casa, una famiglia, i suoi sogni. Eppure sento che l'esilio, quando è volontario, è ancora un modo per continuare a rivoltarsi contro un sistema politico e sociale oppressivo, contro un apparato culturale, teocratico e reazionario. So bene che, quando non c'è altra soluzione che la fuga, essa è sempre la conseguenza di un errore, quale sia, di cui si porteranno a lungo i segni. Sono convinta, però, che non sia solo una condizione psicologica, ma anche una categoria ontologica che, alla lunga, finisce per condizionare la coscienza stessa. Il dubbio politico e la fuga saranno presto un male che infangherà l'Europa. Ho la sensazione di aver vissuto con stupore un mondo irripetibile, la cui alba ha annunciato il socialismo, ma che le potenze oscure della Chiesa e della reazione hanno voluto sopprimere aizzandogli contro la violenza suicidaria delle bande della morte, in nome del più oscuro dei simboli, quello del Cristo Re. In questo momento io e Maria non possediamo che una pistola, un pugno di munizioni, un cambio di biancheria, qualche effetto personale e nel cuore l'urlo raggelante di dolore e di paura di coloro che sono stati così inutilmente uccisi. Spero di ricevere presto aiuto da mio padre, che non sa ancora che sono scampata al peggio. Per reagire mi ripeto, cercando nel mio animo un conforto che non ho, che mi iscriverò di nuovo a medicina, che riuscirò a sistemarmi, che potrò avere dei figli, che mi ricordino tutti i fratelli che ho perduto. Ma sono io la prima a non crederci. La tragedia della Spagna è ora la tragedia della mia vita. La tragedia della Repubblica è quella della mia coscienza. Come potrò ancora sognare? Prima che ci lasciassimo, Juan mi ha detto tra le lacrime, volente o nolente, ora sei un soldato, una rivoluzionaria di professione e molte altre e oscure minacce che incombono mortali sul cielo d'Europa ti attendono. Spetta a noi tutti il compito di inventare nuove resistenze. È il momento di salutarti, se puoi avvisa i miei e bacia C da parte di Maria. Un'ultima raccomandazione, rintraccia quelli di Andorra. Un abbraccio, Nadine. E grazie Clio. E allora sul filo di questa memoria di resistenza che ci riporta, ovviamente, che ci porta al passato, ma ci riporta sempre, costantemente, al presente, direi ci salutiamo e risentiamoci presto. Volentieri. Per continuare il nostro viaggio. Grazie Clio. È stato un piacere. A presto. Ciao bella gente. Ciao. Ciao. Bene, sempre intensi questi racconti di resistenza. Io ringrazio infinitamente Clio per essersi proposta di portare questa rubrica a Radio Contado. E andiamo oltre. Prima di andare oltre, però, ascoltiamoci un po' di musica. Sì. E allora, continua anche in questa puntata la lettura di alcuni belli articoli che ci sono piaciuti sulla rivista Nunatak, rivista di storia, culture, lotte della montagna, in particolare in questa puntata vorremmo parlare del movimento autonomista occitano, sempre per cui rimaniamo in tema anche musicalmente, e appunto quella che si sentiva prima era appunto una canzone della musica occitana. Ci piace l'attenzione che da sempre Nunatak riserva alle culture della montagna, e in particolare dalla montagna vengono tantissime esperienze che sono esperienze identitarie, ma nel segno di una giustizia, di una libertà. Molto spesso i montanari si riconoscevano come persone sfruttate, diseredate, il cui territorio veniva depredato. Ancora oggi in larga parte così, ripercorre un po' queste storie e i loro protagonisti ci sembra cosa utile, buona e giusta, e quindi proponiamo appunto questo articolo che esce sull'ultimo numero, numero 59, che appunto a cura di Lele Odiardo, alle origini del movimento autonomista occitano. Frassino, piccolo paese della Val Variata, primi anni 60, un intellettuale inquieto, in cerca di un approdo sicuro e di un terreno fertile per coltivare le proprie idee, un'affascinante attrice orgogliosa delle proprie origini montanare, un professore stravagante con il pallino della poesia in lingua provenzale. Nelle retrovie, il nostro Tavo Burat insella una rombante lambretta su e giù per le valli a coinvolgere più gente possibile in progetti che guardano lontano. Da questo strano sodalizio, cementato anche dall'entusiasmo di alcuni giovani autoctoni e di ritorno, muove i primi passi il movimento autonomista occitano. Anello di congiunzione tra la bassa e l'alta Val Varaita, Frassino, secondo una piccola monografia turistica degli anni 30, giace sulla sinistra della Varaita, piccolo raggruppamento di case dai tetti grigi, ha la maggior parte della sua popolazione sparsa nelle varie borgate. Terra di contadini, muratori, di emigranti, a partire dagli anni 50 Frassino e le sue borgate subiscono un inesorabile spopolamento, passando dai 1062 abitanti del 1951 ai 581 del 1971. Nella storia della valle, Frassino viene unicamente ricordata per un tragico evento naturale, la grande valanga che nel gennaio 1885 rase al suolo Codifasi e Meira Martin e danneggiò gravemente altre borgate vicine. Nella seconda metà degli anni 60, un movimento storico di forte declino demografico e perdita di identità, Frassino si trova però al centro di una serie di vicende che segneranno profondamente la vita politica e culturale dei decenni successivi nelle valli occitane in provincia di Cuneo e di Torino. Del tutto casualmente, infatti, sul piccolo paese convergono persone ed energie che producono un insolito fermento di idee e pratiche nuove, che guardano alla tradizione ma si pongono in termini di rottura con l'esistente, che provano a dare una prospettiva diversa alla vita di montagna per arginarne lo spopolamento e resistere alla colonizzazione imposta dal nuovo assetto economico delle città e della pianura. Nel 1964 a Frassino si trasferisce François Fontan, già fondatore del Parti Nazionaliste Occitan e autore della prima stesura di un pamphlet intitolato Ethnisme. Fontan è un personaggio singolare, omosessuale dichiarato, autodidatta e inquieto, avido di conoscenze, ostinato propugnatore delle proprie idee ma al tempo stesso garbato cultore del confronto dialettico. Poco più che adolescente conosce la questione occitana a Toulouse, città vicino a Roquefort dove vive. Nel decennio che trascorre a Nizza prima di trasferirsi in Val Varaita, matura un approccio politicizzato e militante, influenzato inizialmente dall'anarchismo e in seguito dal marxismo critico di Cornelius Castoriadis e della rivista Socialismo Barbarie. A Nizza, Fontan vive in assoluta povertà e frequenta gli ambienti politici e artistici che si ritrovano a discutere nei bistrò sulla Promenade des Anglais. Sono gli anni della guerra d'Algeria e si schiera apertamente a favore del fronte di liberazione nazionale algerino, maturando posizioni scomode sul tema allora scottante, in Francia soprattutto, della decolonizzazione. Insieme ad altri militanti del PNO viene processato e condannato per il sostegno al fronte di liberazione nazionale algerino e per aver aiutato alcuni disertori dell'esercito francese che si rifiutavano di combattere in Algeria. Decide allora di lasciare Nizza. A questo punto bisogna fare un passo indietro e nella storia irrompe Thabo Bourat, infaticabile animatore culturale fuori dagli schemi, tra l'altro primo direttore responsabile della nostra rivista. Nell'agosto del 1961, a Crisciolo, in Valle Po, nasce l'associazione L'Escolo du Po, per iniziativa del giovane Thabo. Allora era un fervente piemontesista e aveva percorso le valli occitane, da Limone Piemonte alla Valle di Susa, con la sua Lambretta, andando a rompere le scatole a tutti per creare una sezione italiana di Felbrige, movimento culturale e letterario fondato in Francia da Frédéric Mistral, premio Nobel per la letteratura nel 1904 per le sue opere in lingua provinzale. Nessuno utilizza ancora il termine occitane, ma l'associazione si impegna moltissimo sui temi della rinascita culturale, linguistica e letteraria delle valli. Non sarebbe possibile comprendere ciò che è successo nel mondo occitanista senza riconoscere tutto l'instancabile lavorio fatto da Thabo Bourat. Nel 1964 Bourat e Fontan si incontrano a Toulouse. In quell'occasione Fontan gli rivela l'intenzione di lasciare la Francia a causa dei suoi problemi legali e Bourat gli consiglia di andare a Frascino, dove in quel periodo era tornato a vivere Antonio Bodrero, poi conosciuto come Barbatoni, insegnante alle scuole medie di Saint-Père e membro dell'Escolo du Po. In realtà Barbatoni, che per un periodo subirà l'influenza delle idee fontaniane, si dimostrerà diffidente nei suoi confronti. Resta il fatto che un giorno di quello stesso anno Fontan arriva con la Corriera a Frascino insieme all'amico Robert, pittore naif, e vi rimarrà fino alla fine dei suoi giorni. Affittano una casa in Borgata Radice. François non aveva assolutamente nulla, non ha mai lavorato, viveva con i pochi soldi che gli mandava sua madre e quelli che lo chiamavano professore rispondeva: «Moi j'ai fait l'école primaire, c'est tout», cioè io ho fatto solo le elementari e finisce qua. Era un orgoglioso autodidatta, vorace di studi e letture. Nella borgata dove si stabiliscono vivono soprattutto persone anziane e alcuni giovani, vivaci e intelligenti, che rimangono affascinati dalle idee del francese. In un contesto del genere compare Dominique Boschero, attrice bellissima e di una certa fama, che in quel momento viveva ancora a Roma, ma tornava spesso a Frassino, suo paese d'origine, insieme al suo compagno di allora, Claudio Volonté, e al fratello di lui, Gian Maria, con la compagna Carla Gravina. Tra Dominique e François si crea subito una grande intesa e l'attrice sarà una figura importante in tutte le vicende dell'occitanismo delle origini, con la sua passione e la sua esuberanza contribuendo a dare visibilità al nascente movimento. I giornali si occupano di quanto avviene nel piccolo paese della Val Varaita e in un articolo del Corriere della Sera dell'11 novembre parla di un misterioso personaggio, il professor François Fontan, cittadino francese, 38 anni, fondatore e segretario in Francia del Partito Nazionalista Occitano, dichiaratamente separatista, che mira alla creazione di una nazione comprendente 7 regioni: Provenza, Languedoc, Guascogna, Guyenne, Limousin, Alvernia e Delfinato, e forse ad aggiungere a queste regioni francesi quelle confinanti della Spagna e dell'Italia. Il professor Fontan vive da 2 anni e mezzo a Frassino, ove svolge, sono parole sue, soltanto attività di pubblicista, nessuna attività di carattere politico. Gli abbiamo chiesto il perché della sua presenza in Italia. Ha sorriso: il mio partito in Francia è legale, ma questo non vuol dire che sia ben visto dalle autorità golliste. Mostra libri, opuscoli, programmi del suo partito, mostra anche una bandiera, un quadrato rosso con impressa la croce degli albigesi e una stella a 7 punte simboleggiante le 7 regioni provenzali francesi. L'anno seguente compare lo statuto del MAO, il movimento autonomista occitano, che viene anche deposto alla questura di Cuneo. Fontan, ancora una volta, non si espone in prima persona, ma sicuramente quel termine, occitano, usato per la prima volta, è farina del suo sacco. Il MAO si definisce Movimento Popolare di Liberazione Nazionale, che ha per scopo la totale decolonizzazione politica, economica, culturale delle valli occitane. Ricorda Dino Matteodo, segretario del MAO per lunghi periodi a partire dal 1974 e sindaco di Frassino per diversi mandati. Tutti qui lo chiamavano Le Français, era una persona gentile, ben vista da tutti. Io l'avevo visto qualche volta in giro, ma non sapevo assolutamente niente di lui e non posso dire di averlo conosciuto fino a quando una sera, nella bottega del paese, lo incontro e lui attacca bottone. Se non sbaglio, quella volta mi invitò a una festa occitanista alla Roscio e di lì cominciamo a frequentarci. Fontan riusciva benissimo a semplificare le cose, a esporre le sue idee in maniera lineare e comprensibile a tutti. Arriva in un posto in cui tutti parlano tra loro l'occitano e sa cogliere un grande bisogno, un bisogno reale, il dramma di un territorio che si sta sfasciando, di una popolazione che sta scomparendo. E lui riesce a dimostrare che tutto ciò non è ineluttabile, ma il frutto di scelte. Se ne possono fare altre di scelte, un per mutare il corso degli eventi. Se tu a questo territorio dai un'identità, una lingua, una cultura, allora è chiaro che questa identità, prima o poi, dovrai dare anche una struttura, la regione autonoma, che bisogna conquistare. Da qui deriva poi il discorso critico sullo sviluppo economico della montagna, sullo sfruttamento delle grandi risorse che la montagna possiede. Nessuno, proprio nessuno, aveva mai parlato prima di queste cose. Il suo ragionamento era puramente ideologico, ma aveva un riscontro in quanto stava succedendo allora nelle regioni del terzo mondo. La decolonizzazione in Africa, in Cina, a Cuba, aveva un'ammirazione e una conoscenza profonda dei movimenti di liberazione e con estrema semplicità portava tutto questo a Frassino in modo convincente. Alcuni giovani che gravitavano nell'orbita delle Scuole du Po, sicuramente influenzati dalle stanze di rinnovamento del 68, incuriositi dalla cultura, dalla musica, dalle danze tradizionali delle vallette occitane, entrarono in contatto con Fontan e il nucleo originario si allarga. Fontan stesso era molto colpito dal movimento del 68. Per lui era il mondo dei giovani che volevano fare la rivoluzione. Ogni volta che qualcuno faceva casino e scendeva in piazza, lui era felicissimo. Quei giovani della Val Varaita e non solo, nel febbraio del 71 danno vita al Comitato Autonomista Occitano d'Azione, che diffonde un volantino ciclostilato dal titolo Litro d'Uberto e Occitan, e a fine estate pubblica il primo numero del giornale Lo Sulstrel, che ha sede a Saint-Pierre e avrà un'influenza enorme. In prima pagina campeggia a caratteri cubitali la scritta Chi siamo, cosa vogliamo. L'Ussestrel è un falò, è il simbolo al valore di un simbolo, cioè un richiamo a una vecchia civiltà che con il fuoco sentiva il contatto con il sole, sole, e gli astri, strel, l'universo. Non crediamo di essere più belli o più brutti degli altri, non cerchiamo privilegi per stare meglio degli altri, non vogliamo rinchiuderci per guardare al passato, crediamo che i patrimoni culturali e territoriali siano utili solo se messi al servizio dell'avvenire di tutti. Poveri e apparentemente in decadenza, abbiamo un patrimonio culturale che è innanzitutto un patrimonio popolare, di libertà. In tutte le nostre valli è stata fatta la resistenza. Dopo secoli e secoli, e sotto diversi aspetti, il nostro è un patrimonio di protesta. Crediamo che gli abitanti di queste valli possano e debbano governare da soli in misura molto maggiore che nel recente passato e che oggi siamo cittadini delle nostre valli, come siamo cittadini del mondo. Perciò prendiamo l'iniziativa dell'autonomia. Ci basta? Certamente no. La giustizia che noi esigiamo per le nostre popolazioni, per tutti gli individui che abitano nelle nostre valli, si otterrà con un lavoro difficile di costruzione, che richiede la massima partecipazione possibile, una completa solidarietà con le esigenze di giustizia e di libertà, a cominciare dai più diseredati. Il 1971 è un anno cruciale. A fine anno c'è la riunione fondativa del MAO all'Osteria della Posta di Melle. Il 26 dicembre, festa patronale di Frassino, sotto un'abbondante nevicata, Barbatoni, insieme a Dario Anghilante, Fredo Valla di Saint-Pierre, ricorda qui sempre Matteodo, mi vengono a prendere a casa e mi portano a Melle. Non potevo dire di no. Arriviamo a Melle, la riunione era già in corso. Ci saranno state 30 o 40 persone. Il clima era molto politico. Di tutta la discussione, io capisco ben poco. Comunque alla fine viene approvato lo statuto, con alcune modifiche. E io spontaneamente, senza farmi troppe domande, aderisco e prendo la testa. Il primo segretario è Barbatoni. Si chiude così, nella sala fumosa di un'osteria, mentre fuori, in furia la bufera, la fase eroica del movimento citano, che partito da Frassino si estenderà poi nelle altre valli. François Fontana acquisterà una bella casa, con di Fassi, con i soldi dell'eredità di una vecchia zia, continuerà a rimanere dietro le quinte, mantenendo però un ruolo importante negli sviluppi successivi del Mao, fino alla morte prematura, minato dalla salute, della cattiva alimentazione, dalle troppe Gaulois e dal troppo gin. Barbatoni lascerà presto la segreteria del Mao per prendere le altre strade, la sua casa in centro al paese, sempre più trasandata e circondata da una selva quasi impenetrabile. Dominique Boschero abbandonerà definitivamente il mondo del cinema per trasferirsi a Miracruz, la borgata della Drac dove abitano i nonni e dove coraggiosamente vive tuttora. Grazie Bepi. Ci sono anche dei ringraziamenti, delle voci di sottofondo per noi. Sì, sì, ci sono delle voci sottofondo, ma voi ignorate. Io ricordo a tutti che comunque, per chiunque voglia leggere o conoscere la rivista Nunatak, può trovare tutte le informazioni su nunatak.noblogs.org in qualsiasi momento. Inoltre, per chi volesse una copia cartacea della rivista, ricordo che si può trovare al mercato di Piazza Tasso, c'è una distro con del materiale, tra cui anche Nunatak, rivista di storie, culture, lotte della montagna. Perfetto. E dopo quest'ultimo pezzaccio ci aspetterà la rassegna 20. Vai! We'll be right back. andare in giro con la maschera antica. Mi sento troppo in giro con la maschera antica. La gente tutta intorno. Siamo giunti a conclusione di questa puntata 105 con la nostra rassegna eventi. Sì, signore e signori, il momento che tutti stavamo aspettando è finalmente giusto. E allora io direi di partire proprio a raffica. Il primissimo appuntamento è, vi ricordiamo, a partire appunto da oggi andando verso mercoledì prossimo e venerdì in Piazza Tasso con il consueto mercato. Passiamo poi a un'assemblea pubblica venerdì 19 maggio alle 21 sulla scuola. Priorità alla scuola. Firenze, in vista della mobilitazione del 24 maggio, lancia un'assemblea pubblica online mercoledì 19 maggio alle ore 21. Per chi volesse maggiori informazioni trova tutto sulla punta.org. Arriviamo a sabato e domenica 22 e 23 maggio, Brugole e Merletti. Eh sì, là due giorni di autoriparazioni, creazioni do it yourself, che mai mano umana o non umana, le più belle che siano mai state fatte, che vi è mancato tantissimo. Quest'anno ritorna al Next Emerson, quindi andate a immergervi nel mondo dei nerd, degli smanettoni o che ne so, degli idraulici sfaccendati e all'Emerson. Queste due giornate interamente dedicate allo smanettamento. E domenica, lo ricordiamo per l'ennesima volta, c'è il nostro appuntamento con gli eventi di Oltre il Mercato e questo giro siamo con Genio Candestino, il coordinamento delle comunità contadine toscane in piazza a Pistoia, al parco di Montuliveto a Pistoia dalle 15.30, assemblea aperta, venite a dire la vostra, ad ascoltare e a sostenere questo mercato. E non ultimo, sopravvive ed è sempre più forte il nostro mercato all'Isolotto il martedì dalle 3 alle 7 più o meno, davanti alla biblioteca Canova dell'Isolotto in via Canova. C'è altro? Per ora direi basta. Direi che no, che va benissimo. E quindi andiamo verso la conclusione di questa puntata in incredibile e non so, a questo punto forse imbarazzante precisione. Quindi io ringrazio tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno contribuito a questa puntata e ci aggiorniamo a mercoledì prossimo sempre sulle frequenze di Radio Wombat, che ricordiamo 13.59, e noi nello specifico mercoledì alle 2:30 Radio Contado. A presto, grazie Beppi per la regia, ciao. Figo, frequenterei il locale giusto. Fossi figo, conoscerei la gente giusta. Fossi dedicata alla grebana. Indosserei vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei il principe dell'adduttore. Sarei il re dell'addominale. Sarei il re della finestra. Ammirerebbero i miei capelli. Sì, sono finti.